Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Al via il Consiglio europeo sui fondi per la ripresa. È una trattativa difficile, ammette Angela Merkel, frena anche il premier olandese Rutte. Riprende l'industria a maggio in Italia, il fatturato in crescita del 41,9% nel primo mese dopo il lockdown. Scuola per la CGIL, ad oggi non ci sono le condizioni per un ritorno in presenza a settembre, mancano aule e insegnanti. Boom di affari per le mafie con il Covid, secondo la direzione distrettuale antimafia, con la frenata dell'economia crescono le occasioni per la criminalità. E buongiorno ad Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Differenze importanti tra i leader europei che rendono la trattativa per il fondo di ripresa europea molto difficile. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, arrivando a Bruxelles per questo importante vertice che potrebbe prolungarsi anche fino a domenica. Alla vigilia l'intesa è stata invece forte tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Macron, nella direzione, dicono, di una risposta ambiziosa e immediata. Tensioni invece tra Italia e Olanda. Il primo vertice europeo post-Covid di Bruxelles consegna l'immagine di un'Europa ferita dalla pandemia che non riesce a ritrovare un minimo di unità e di coesione sugli strumenti finanziari di rilancio economico. Italia e Francia, soprattutto dopo il colloquio di ieri sera tra Conte e Macron, stanno guidando il gruppo dei paesi che vorrebbero far compiere un vero salto di qualità all'Unione. Contro remano i frugali e i paesi dell'Est, in mezzo alla presidenza tedesca che insieme al presidente del Consiglio UE, Charles Michel, sta cercando di mediare, inserendo alcune forti condizionalità per la concessione delle sovvenzioni, 500 miliardi del Recovery Fund. Dobbiamo dirci le cose con chiarezza, ha spiegato il presidente del Consiglio Conte prima di entrare al Consiglio. La comunità nazionale italiana ha sofferto e sta soffrendo molto, ma nell'interesse di tutti i cittadini europei la linea rossa è che la risposta sia adeguata ed effettiva, concretamente perseguibile. Conte ha consapevolezza delle divergenze esistenti, giudica sbagliato però seguire una logica puramente contabile. Gli fa eco il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Siamo cresciuti, ha detto Sassoli, insieme attorno a valori comuni. Non riduciamo l'UE a un distributore automatico di soldi. Gerardo Pirosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E seguiremo nel corso della giornata gli sviluppi del vertice che è iniziato oggi a Bruxelles. Adesso invece veniamo all'Italia, perché ci sono segnali di ripresa dell'economia. A maggio, mese che segna l'uscita dal lockdown, il fatturato dell'industria registra un incremento del 41,9%, secondo l'Istat. Recupera quasi il calo di aprile il dato Istat di maggio su ordinativi e fatturato delle imprese. Nel mese che segna l'uscita dal lockdown, al netto dei fattori stagionali, registra un significativo incremento su mese precedente, salendo infatti oltre le aspettative del 41,9%, invece su base annua riduzione del 25,9%. Anche gli ordinativi dell'industria italiana a maggio registrano un balzo congiunturale del 42,2%, ma scontano anche qui ancora un calo del 34,7%. Su base annua. Roberto Monducci, direttore del Dipartimento Produzione Statistica Istat. Segnale molto consistente. È evidente tuttavia che quello che è successo nei due mesi precedenti incide molto sul livello di fatturato, che è ancora molto più basso rispetto a quello dell'anno precedente. I dati di giugno saranno decisivi. Fatta eccezione per l'automotive, ancora in calo a due cifre, e per il turismo, da cui si attende però un rimbalzo, gli altri settori sono ripartiti. Tutte a due cifre, una forte ripresa del settore dei beni durevoli, ma soprattutto dei beni strumentali, più 61,1% per quanto riguarda i beni investimento, legato anche al nostro posizionamento internazionale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uno stop arriva invece per la scuola a settembre e arriva dai sindacati. Ad oggi, dice il segretario della CGIL Scuola Sinopoli, le condizioni per riprendere la didattica in presenza a settembre in sicurezza non ci sono ancora. Ma quali sono i problemi aperti? I sindacati lanciano l'allarme in vista del nuovo anno scolastico e chiedono al governo di intervenire con un decreto per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. Al momento non ci sono le condizioni per un ritorno in classe in presenza, avverte la CGIL, la cui preoccupazione è che si dovrà di nuovo fare ricorso alla didattica a distanza. Siamo in forte ritardo e la responsabilità è in buona parte della ministra Azzolina, attacca la CISL. Abbiamo chiuso la scuola a giugno e la ritroviamo identica a settembre, aggiunge la UIL. All'avvio del nuovo anno scolastico ci saranno enormi difficoltà, prevede anche lo SNALS, mentre per la Gilda è solo propaganda dire che a settembre la scuola riaprirà in sicurezza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso nuove misure restrittive in Spagna, ma anche in Israele dopo la ripresa dei casi di coronavirus. Un record ancora di contagi giornalieri per quanto riguarda gli Stati Uniti, oltre 68.000 in Brasile, superati i 2 milioni di casi totali. Sono sempre gli Stati Uniti il paese più in difficoltà per numero di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore nuovo record di contagi e oltre 970 decessi. L'amministrazione Trump nel frattempo ha ordinato agli ospedali di non fornire più all'Agenzia Sanitaria per il controllo e la prevenzione delle malattie USA i dati sui pazienti affetti da coronavirus, ma di inviarli direttamente ad un database a Washington che sarà gestito dal Ministero della Salute. Una mossa che suscita l'allarme degli esperti, i quali temono una distorsione dei dati per scopi politici. Il Brasile ha superato i 2 milioni di casi, mentre le vittime sono salite a più di 76.000. In India, terza nazione più colpita a livello globale, sono invece oltre 1 milione i contagi. Allarme anche in Israele, dove nel fine settimana restano chiusi negozi, centri commerciali, parrucchieri, librerie, musei e piscine. Nessuna restrizione prevista invece al momento per le spiagge e lockdown totale in Cisgiordania fino a domenica mattina. In Russia sono 12.000 i decessi. Nuovo focolaio di Covid-19 in Cina, nello Xinjiang, con 3 milioni e mezzo di abitanti, ora sotto restrizioni per il distanziamento. In Spagna, infine, nuove misure in Catalogna per parte della regione, compresa Barcellona, dove è stato chiesto ai cittadini di restare a casa per l'aumento di nuovi casi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso di nuovo in Italia con la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, nell'ultima relazione semestrale che parla delle relazioni tra le mafie e l'emergenza economica legata alla pandemia. Intanto è il gioco d'azzardo la seconda voce di ingressi dopo la droga per quanto riguarda la criminalità organizzata. Ricordiamoci però che la mafia non è invincibile, dice il generale Governale a capo della DIA, al microfono di Cristina Carpinelli. Le mafie sono organizzazioni che vanno dove c'è il danaro, dato che siamo un meno 9 o un meno 10% di PIL, quindi le aziende sono in difficoltà e dovranno arrivare decine e decine e decine di miliardi. Tutto questo fa gola alle mafie, che si muovono non seguendo le regole, seguendo solo la logica del profitto. E lei pensi quante risorse saranno riversate nel mondo della sanità, nel mondo della ricostruzione delle identità societarie, nel mondo della ristorazione. Voi avete parlato anche di un recupero quasi di un'identità mafiosa sul territorio, soprattutto in alcune aree depresse del sud, per cui la mafia va a sostituirsi a una sorta di welfare che manca. Perché approfitterà del fatto che tante parti della popolazione, piccoli impiegati, piccoli commercianti, coloro che vanno in difficoltà avranno bisogno, e questa volta farà dei prestiti non a tasso di usura, a tassi assolutamente convenienti, perché alla fine si deve spargere la voce. Diceva Sturzo nel 1900, si mette a disposizione per domani essere servita dalle elezioni per fare eleggere quelli che vorrà. La cronaca, una donna di 31 anni in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere finita con il monopattino elettrico di cui era la guida contro un autocarro in centro. Secondo una prima ricostruzione la donna non avrebbe rispettato una precedenza. Ma al tempo sull'Italia, oggi in particolare sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente anche l'attività elettrica. A Palermo intanto quasi ultimate le operazioni di svuotamento dei sottopassi. È la grandine a fare paura per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in questa stagione. Quest'anno si è perso già un frutto su tre per effetto del clima impazzito, con evidenti ripercussioni sul carrello della spesa. E quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'allerta gialla della Protezione Civile in 9 regioni, principalmente del centro, per il maltempo e per le attese grandinate. Nelle zone interessate dalla nuova perturbazione, sottolinea la Coldiretti, sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta in piena raccolta, ma anche i cereali e i vigneti. A Palermo, intanto, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per tutta la notte nel sottopassaggio della circonvallazione, dove mercoledì alcune automobili sono rimaste completamente sommerse dall'acqua. Le operazioni hanno escluso la presenza di eventuali vittime. Dalle prime ore di questa mattina, inoltre, è intervenuto anche l'esercito per rimuovere il fango dalle strade. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È uno dei capisaldi dell'intrattenimento e della televisione italiana. Parliamo dei Sanremo. Ebbene, l'edizione 2021, fa sapere la RAI, è stata spostata di quasi un mese per cercare di realizzarlo nella formula tradizionale. Un festival della ripartenza non solo per il mondo della televisione ma anche della musica, che ha tanto sofferto in questo periodo di emergenza. Così Amadeus commenta la notizia, finalmente ufficiale, della sua riconferma nel ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo. Quella del 2021 sarà la prima edizione post-Covid, che proprio per questo Amadeus definisce la numero 70 più 1. Ma dopo la pandemia cambierà qualcosa? C'è un piano B? Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Sanremo piano B non è Sanremo, ma per questo abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo, perché spereremo tutti che al 2-6 marzo possiamo davvero andare a Sanremo e farlo nella formula tradizionale. Coletta ha confermato la presenza di Fiorello, Amadeus dice lo convincerò. Subito dopo l'annuncio ai palinsesti Rai, Sanremo 2021 è diventato trending topic su Twitter, segno che la curiosità è viva. Sarà un Sanremo che forse riaprirà la nostra normalità, e quindi viva Sanremo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Per il calcio, vittoria ieri sera per l'Inter, così i nerazzurri riacciuffano il secondo posto in classifica di Serie A. Per quanto riguarda la Formula 1, a Budapest a partire da oggi le prove libere del Gran Premio d'Ungheria, ne parleremo ancora più avanti. Adesso 13:12, facciamo un piccolo break, torneremo tra poco, ripartiremo da una scoperta all'Università Federico II di Napoli, tamponi rapidi per la diagnosi del Covid in pochi minuti e a pochi euro. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste notizie di oggi. Al via il Consiglio europeo sui fondi per la ripresa, trattativa difficile, dice Angela Merkel. Riprende l'industria a maggio, il fatturato in crescita del 42% secondo l'Istat. Scuola per la CGIL, non ci sono le condizioni per un ritorno in presenza a settembre, mancano aule e insegnanti. Dall'Università Federico II di Napoli un tampone ultra rapido per il Covid, bastano 3 minuti e pochi euro, ne parliamo tra poco. Alle 13:15, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, e come anticipato dai titoli è con noi il professor Raffaele Velotta, professore di fisica applicata all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto. Allora, parliamo di questa novità, insomma, di questo tampone per diagnosticare il coronavirus in pochi minuti, anziché, insomma, del tempo che ci vuole attualmente, perché, insomma, è un tempo che è cambiato, è un po' sceso. All'inizio ci voleva forse molto più tempo, però poi ci si è organizzati con macchinari, in alcuni casi macchinari più complessi, in altri casi con procedure come in Veneto invece legate così alla disponibilità di personale con liquidi di contrasto, insomma, per evidenziare l'RNA all'interno dei tamponi anche autoprodotti in Italia anziché importati dalle farmaceutiche, grandi farmaceutiche estere. Però, professor Velotta, questa scoperta sembra potenzialmente potenzialmente molto importante, perché voi dite, insieme al Cosvitec, che è il centro di ricerca e formazione azienda campana che ha lavorato in collaborazione con voi, che ci vogliono 3 minuti per fare questo test. Di che si tratta? Sì. Allora, i 3 minuti, diciamo, riguardano il cambio di colore nel caso in cui la carica virale sia molto alta. Noi abbiamo fatto dei test su campioni, diciamo, di pazienti che erano in ospedale e avevano, sì, un'alta carica virale, e in quel caso con questa soluzione colloidale che abbiamo prodotto nel nostro gruppo funzionalizzato, diciamo, nel nostro gruppo di ricerca, quello che succede è che queste nanoparticelle con anticorpi è come se aggredissero la particella virale e quindi fanno cambiare il colore per un effetto fisico. Ora, questo cambio di colore è visibile ad occhio nudo nel caso, sì, in cui di cariche virali ce ne siano tante, altrimenti è necessario, e quindi lì sono effettivamente pochi minuti. Altrimenti abbiamo fatto poi altri esperimenti, abbiamo fatto un centinaio, 50 positivi, 50 negativi circa, e lì nel caso di bassa carica virale in realtà la lettura è stata fatta con uno spettrofotometro che è in grado di leggerne un centinaio, le piastre diciamo da 90, sì, in circa 2 minuti, quindi diciamo adesso non stiamo lì, come dire, a fare la corsa contro il tempo, no? Questo è anche un po' un effetto, diciamo, come dire, a volte un titolo un po' giornalistico per impressionare. Sì, ma diciamo, però ecco, no, perché questa cosa è importante. Facciamo un esempio, no? Fino, sì, ad oggi i tamponi sono stati utilizzati in certi contesti, negli ospedali o anche nei pre-triage fuori dagli ospedali, altrove, in centri di ricerca appositi, ma si è detto, per esempio, si riuscisse a fare dei test rapidi prima di andare, per esempio, di entrare in un aereo all'aeroporto, in modo da poter eventualmente fermare o tenere sotto controllo l'eventuale positivo, però questo si potrebbe fare soltanto con test rapidi di pochi minuti, quindi la differenza tra le ore e i minuti non, esatto, è da poco. Potrebbe essere uno sviluppo di questo. Assolutamente sì. No, io volevo solo dire che questi 3 minuti, voglio dire, potrebbero diventare 15 nel caso in cui, sì, uno debba fare il tampone a, che ne so, ai passeggeri di un aereo che scendono, e allora se uno vuole fare la lettura con questo strumento è necessario che il tampone venga fatto prima a 96 persone e poi venga fatta la lettura. Ma diciamo, se invece di 3 minuti è mezz'ora, voglio dire, mentre uno fa il tampone, assolutamente, diciamo, stiamo comunque parlando di una risposta che può avvenire in un tempo molto molto molto rapido, molto rapido. Senta, perché il principio fisico, ecco, sì, esatto, il principio fisico su cui si basa, ci spiega qual è la tecnologia su cui si basa questo tampone rapido, sì, e anche quello che ci diceva prima, cioè il fatto se è in grado di evidenziare chiaramente anche positività in caso di bassa carica virale, perché sappiamo che gli ultimi tamponi che si stanno facendo in Italia in queste ultime settimane sono quasi tutti casi di questo tipo, cioè per andare a vedere la positività bisogna amplificare molte volte la rispondenza della, esatto, ricerca dell'RNA virale, perché altrimenti, essendo bassa carica, non si, esatto, non si trova. Come funziona? Allora, diciamo che quando abbiamo iniziato questi test preliminari eravamo, diciamo, come dire, preoccupati, ecco, della sensibilità e quindi della possibilità di avere una risposta anche in presenza di bassa carica virale. Invece poi l'esperimento sul campo ci ha sorpreso, perché in realtà riusciamo quasi, ecco, mi faccio dire quasi per essere, diciamo, onesti, quasi ad arrivare ai limiti della cosiddetta PCR, che è una, diciamo, una tecnologia della biologia molecolare. Naturalmente non siamo, diciamo, a quei livelli lì, nel senso che quello resta il gold, sì, standard per questo tipo di analisi, però riusciamo ad arrivare a misurare delle cariche virali che nel caso della PCR richiedono molti cicli di amplificazione, proprio come diceva correttamente lei. Quindi è chiaro che ci può sfuggire qualcuno, non c'è dubbio, ma stiamo parlando di soggetti veramente, diciamo, poi con bassa carica virale. Io non sono un virologo, ma voglio dire, mi aspetto che chi abbia una bassa carica virale sia anche poco contagioso, insomma, non è complicato. Questo è quello che ci viene detto in questo momento. Esatto, senta, professor, esatto, Velotta, l'ultima cosa, quanto costerebbe nel caso in cui venisse poi prodotto o commercializzato su vasta scala, e si può produrre su vasta scala il vostro test? Sì, allora sicuramente è scalabile, questo noi diciamo prima di lanciarci in questa cosa lo abbiamo in qualche modo verificato, naturalmente per arrivare fino in fondo occorrono ancora altri test di tipo industriale, nel senso che occorre vedere per esempio la stabilità di questa soluzione una volta funzionalizzata, occorre vedere un po' di cose, diciamo, ma in questo senso siamo fiduciosi, in una situazione normale probabilmente non avremmo nemmeno dato l'annuncio, avremmo aspettato la pubblicazione scientifica, ma vista la, diciamo, l'urgenza siamo stati anche un po' spinti ad anticipare questi tempi. Comunque da questo punto di vista siamo diciamo fiduciosi, ma dobbiamo aspettare un po' di tempo ancora. Mentre per quanto riguarda la prima domanda che mi faceva a proposito del costo, quello che le posso dire è che come per tutti i test veloci stiamo sicuramente a un livello di materiale consumabile è sicuramente sotto l'euro, poi tutto il resto è diciamo un costo che ha a che vedere, che ne so, con l'azienda, diciamo il personale e tutto quanto, ma il costo tecnico è quello, poi certo, il costo tecnico è quello, poi ci sono naturalmente il personale, la disponibilità di chi poi deve in qualche modo fare concretamente il tampone, che anche nel vostro caso si tratta di un tampone nasofaringeo, se ho capito bene, giusto? Esattamente, sì sì sì. Quindi va applicato, ci vuole il personale che lo applichi. Grazie al professor Velotta all'Università Federico II di Napoli, grazie per essere stato con noi. Cambiamo argomento perché vogliamo invece, come ogni venerdì, darvi un'anticipazione di quello che è l'approfondimento di domani mattina alle 8:15, il reportage di Radio 24, viaggiando a Milano, pendolari alla prova in attesa di settembre, di Anna Marino. Parliamo di come ci si muove e come ci si muoverà nelle città a partire da settembre, soprattutto con la ripresa, quando in molti forse torneranno anche nelle città dove si lavora. Milano è un caso esemplare e cerchiamo di capire quali sono le novità. Lo facciamo sentendo l'intervista all'assessore di Milano alla mobilità, Marco Granelli. A questo punto noi pensiamo che per settembre abbiamo la necessità di operare su due fronti. Uno, la ripresa ha bisogno di un trasporto pubblico sicuro dal punto di vista del Covid, e questo non può che essere fatto con un mix di regole e di interventi. Noi stiamo garantendo una pulizia dei mezzi continua, sia nel momento in cui vanno in deposito sia durante la giornata. Abbiamo chiesto anche al governo di modificare le regole, cioè passare dal tema del distanziamento alle precauzioni. Come può modificare la mobilità, una mobilità diciamo alternativa, un diverso modo di pensare il lavoro come quello dello smart working e un diverso modo di pensare la scuola a settembre? Sul fronte del lavoro stiamo con i mobility manager lavorando per fare in modo che si possa trasformare il lavoro a distanza in un lavoro con modifiche di orari, soprattutto nel terziario, con un accesso che non si sovrappone alla punta mattinale tipica dello scolastico, mentre sulla scuola, soprattutto della scuola secondaria in poi, modificare gli accessi per riuscire ad avere una diversificazione con gli orari del lavoro. :13:25, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. Andiamo a Belluno, dove fa discutere la decisione della provincia di stabilire il nuovo calendario di caccia, che prevede l'anticipo della caccia al cervo e l'aumento di una quota del 20% dei capi da abbattere. La provincia precisa però che si tratta, come dire, della necessità di riequilibrare una popolazione che è cresciuta, popolazione di cervi naturalmente, molto, troppo negli ultimi anni. È con noi il presidente della provincia di Belluno, sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, Padrin, effettivamente è questo, perché diciamo, leggendo i numeri riportati diciamo dalla stampa locale, nel 1990 c'erano censiti 931 cervi, 10 anni più tardi si è cercato, come dire, di fare una ripopolazione, 2957, adesso siamo a 10.400 esemplari. È questo, sono troppi oggi 10.400 esemplari? I numeri sono precisi, però dobbiamo aggiungere che poi abbiamo anche 13.600 caprioli, 7.250 camosci e 2.428 muffoni. Mi spiega una curiosità, come fate a conoscere all'unità il numero di tutte queste specie, di tutti questi animali? Noi abbiamo veramente un ottimo sistema di censimento che è stato un po' oliato nel corso degli anni e che ci permette, attraverso l'utilizzo delle nostre guardie provinciali, attraverso poi esperti in materia, di avere un po' un quadro complesso, molto preciso della situazione. Sono marchiati questi animali? No, non sono marchiati, ma sono controllati, e quindi noi sappiamo i numeri ben precisi. Non abbiamo invece purtroppo i numeri dei cinghiali, che è un altro di quelle specie in fortissima crescita e che stanno creando dei danni, perché fondamentalmente il ragionamento qual è? Il problema di questi ungulati non è sicuramente quella, la volontà e il divertimento purtroppo di uccidere degli animali, anche se io non sono un ambientalista, ma io mi rendo conto anche del sentimento e di cosa provano questi, perché i danni all'agricoltura sono ingenti, ci sono dei danni all'ecosistema. Pensate che in una delle zone più belle che noi abbiamo, che è il Cansiglio, nell'Alpago, è stato distrutto il sottobosco e è scomparsa ad esempio una specie di gallo cetrone, solo per fare un esempio. Ecco, ma i cervi di cosa vanno, diciamo così come espressione, di cosa vanno golosi? Che tipo di coltivazioni prendono di mira? Sottobosco, questo è il loro habitat e di quello che loro si nutrono. Devo dire, e posso aggiungere, perché c'è anche un tema che riguarda la sicurezza stradale, alcune settimane fa è morto ad esempio un motociclista attraversato da un cervo. Sì, abbiamo perso un attimo il collegamento, stavo dicendo, Padrin, è morto un motociclista. Attraversato da un cervo e quindi capite che c'è anche una questione di sicurezza che va affrontata. Noi stiamo adesso facendo una sperimentazione, stiamo valutando di fare una sperimentazione anche con un sottopasso particolare, cioè vogliamo veramente tutelare in tutti i sensi, sia da una parte il mondo degli ungulati, sia quello ovviamente di motociclisti o di veicoli, perché anche i danni automobili sono notevolissimi, e quindi questi numeri devono essere sicuramente limitati, c'è poco da fare, perché altrimenti ecco. Però volevo precisare prego. Che questo piano è comunque avuto il parere favorevole dell'ISPRA. Cioè ecco, questo che volevo chiederle, perché effettivamente stavo per dire, per tagliare la testa al toro, ma non mi sembra il caso, per sgomberare il campo da ogni dubbio, insomma, no? E dalle critiche appunto degli ambientalisti e di chi dice questa quota è troppo grande, una quota di cervi che si vuole abbattere. C'è un, come dire, una valutazione di carattere ambientale, faunistica, di un ente esterno a questo vostro piano di abbattimento, ma mi sembra che lei stia già dicendo di sì. Sono già due le operazioni che noi facciamo. Da alcuni anni, infatti, ne abbiamo istituito il tavolo verde. Quindi mettiamo attorno ad un tavolo, prima di stilare il calendario venatorio, tutte le associazioni, ovviamente di cacciatori, di distretti, ma anche le associazioni ambientali, il mondo della cultura, in modo da condividere questo percorso. Abbiamo un problema anche con la linea del sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, Padrini, ma insomma la risposta è sì, c'è un parere dell'ISPRA da questo punto di vista. Bene, alle 13.29 ci fermiamo, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco, informazione di borsa e poi 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torneremo a parlare, visto forse anche che è venerdì, di discoteche e dei problemi che ci sono, perché tenerle aperta contemporaneamente garantendo le condizioni richieste dalle misure di contenimento del coronavirus sembra un'impresa quasi impossibile. Tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Al via il Consiglio europeo sui fondi per la ripresa, trattativa difficile, ammette Angela Merkel. Riprende l'industria a maggio, il fatturato in Italia cresce del 42% secondo l'Istat. Scuola per la CGIL, ad oggi non ci sono le condizioni per un ritorno in presenza a settembre, mancano aule e insegnanti. Il punto di Alberto Orioli. Il reddito di emergenza è stato usato dalla metà delle persone che il governo stimava ne avessero bisogno. Se ne immaginavano quasi 800.000, sono arrivate 470.000 richieste e ne sono state messe in pagamento meno di 198.000. Era l'ennesima misura assistenziale, più o meno 800 euro per due mensilità, messa in campo per far fronte all'emergenza Covid, secondo una strategia del sussidio ad personam che ha contraddistinto l'azione del governo Conte in questa fase. Si affiancava al già discutibile reddito di cittadinanza e alle numerose misure misure di cassa integrazione in deroga. Però, come è accaduto più volte, la via per chiedere il sussidio si è rivelata più tortuosa e burocratica del previsto, tale da scoraggiare i richiedenti, soprattutto immigrati. La burocrazia italiana continua a immaginare un popolo di disperati che sia connesso e avvezzo a destreggiarsi con l'indicatore ISEE e cose di questo genere, ma è un'evidente contraddizione. Così la giungla di aiuti che fa dell'Italia un paese di sussidiati ad personam rischia di creare un doppio paradosso. Non offre vera assistenza a chi ne ha davvero bisogno e non riesce a fare i conti con il sommerso, dove galleggia un'umanità che sopravvive alla giornata fuori dai radar della legalità, perché il nero alla fine è più competitivo di qualunque ammortizzatore sociale. Alle 13:38 minuti è con noi Valerio Gronchi, direttore artistico della discoteca Tartana di Scarlino, in provincia di Grosseto. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto Gronchi. Allora, questa è una storia particolare, ma che a quanto ci risulta rappresenta un po' lo stato dell'arte. Succede che insomma, nella vostra discoteca, un grande locale, un storico locale che impiega decine di persone, tra l'altro per troppi assembramenti davanti al locale, qualche giorno fa i carabinieri sono intervenuti disponendo la chiusura per 5 giorni, assembramenti che sono vietati, ricordiamocelo. Il titolare, voi, insomma, lei che è il direttore artistico, avete deciso di non riaprire e di andare avanti con la chiusura ancora un po', perché in queste condizioni non, insomma, avete detto anche così alla stampa locale, non si riesce a lavorare. Che succede? Succede che sabato 11 abbiamo inaugurato e abbiamo fatto di tutto per poter rispettare il protocollo. Aumentando anche la sicurezza da 15 elementi a 40, facendoli anche venire da varie parti d'Italia e mettendo tutta la cartellonistica, abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto, moltiplicato per 3-4 volte, abbiamo voluto esagerare, però non è possibile, cioè non è possibile, perché intanto i ragazzi, anche avendo la mascherina, non riusciamo a fargliela tenere, cioè non è che possiamo mettere una persona, ogni ragazzo che entra, per dirgli metti sulla mascherina continuamente, e questo non glielo possiamo insegnare noi, e poi perché è proprio impossibile, cioè il decreto che è stato fatto perché il decreto, allora intanto specifichiamo che i carabinieri sono intervenuti per quello che è successo fuori dalla discoteca, dove se ho capito bene, visto il numero anche limitato di ingressi, prenotazioni eccetera, c'era gente rimasta fuori, e però come succede spesso si rimane fuori dal locale, ma insomma si sta lì, si fuma una sigaretta, si beve una birra, l'assembramento, e però i carabinieri non sono intervenuti per quello che accadeva dentro, che mi sembra di capire comunque sarebbe stato, cioè, anche lì fondato motivo di interruzione, o no? Sì, la contestazione è stata dell'esterno, naturalmente, dove c'era più aggregazione nel momento di ingresso, anche perché non è che abbiamo 10 ingressi, possiamo smistare le persone, certo. Ma poi, diciamoci la verità, non è possibile nemmeno all'interno, anche con tutte le precauzioni che abbiamo preso, ripeto, cartelli, sicurezza, anche il vocalist continuamente che lo diceva, ma non è possibile. Cos'è che non si riesce a controllare, oltre alla questione della mascherina? Immagino anche un po' la questione del cosiddetto distanziamento, perché adesso le regole teoriche scritte su carta cosa prevedono per voi? 2 metri in pista di distanza. Cioè persone che ballano a 2 metri di distanza l'una dall'altra? Sì, 2 metri di distanza, e quello è possibile, ma anche se fosse 1 metro è impossibile, non si può dare una distanza in una discoteca, quindi non c'è una distanza. Qual è la non so usare la parola soluzione o la proposta? Non c'è. Cioè, la discoteca si va per ballare, per parlare, per conoscersi, per fare aggregazione, non c'è un'altra soluzione. Noi addirittura da 23 tavoli che abbiamo a disposizione ne abbiamo messi 6, perché volevamo allargare ancora di più gli spazi, e la discoteca di Tartana è molto grande. Però potevamo anche non metterli, non cambia niente, potevamo togliere tutto quello che abbiamo, ma quindi come Valerio Gronchi, come se ne esce in questa fase? Voi avete deciso di rimanere fermi ancora un po', poi noi abbiamo deciso questo, noi ci siamo fermati, anche se domani potevamo aprire, perché la chiusura era di 5 giorni, perché aspettiamo, cioè vediamo noi fino a fine luglio, infatti l'ho sospesa la programmazione, fino a fine luglio aspettiamo, speriamo che cambi qualcosa, io ho i miei dubbi che cambi qualcosa, comunque speriamo che cambi qualcosa a livello nazionale, ma intanto per la salute di tutti prima di tutto, no, per la discoteca, e vediamo se cambiano delle leggi, delle regole, anche perché noi abbiamo deciso di non aprire, perché siamo stati onesti con noi stessi, non è che si tratta, siamo bravi, non siamo bravi, sono i clienti, non sono bravi o non sono bravi, è impossibile, cioè è stato fatto un decreto per arrivare a questo, secondo me, farci multare, farci uscire sui giornali come, non lo so, dei terroristi, non so nemmeno definirlo, perché siamo usciti su tutti i giornali come, non so spiegarvelo, quando o se la sera andiamo in un centro, in una piazza o andiamo al mare, io non vedo nulla di differente dagli altri anni, anzi, stando a casa tutti questi mesi, la voglia di stare più vicini ce n'è di più. Io la ringrazio, Valerio Gronchi, direttore artistico della discoteca Tartana, vedremo, insomma, staremo a vedere che se cambieranno queste linee guida, effettivamente non si può, come dire, non ritrovare una vena di ipocrisia forse in linee guida che stabiliscono 2 metri di distanza per all'interno di una discoteca, forse valeva la pena dire è impossibile riaprirle e trovare delle compensazioni magari economiche anche per questo genere di attività ancora adesso, che sono le ultime che possono riaprire, per così dire, in sicurezza. Ci fermiamo, come sempre torniamo tra poco con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.